You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buonasera, buonasera a tutti da Valentina Furlanetto. Allora mettiamoci a tavola per questa cena, quest'oggi tutta europea, perché abbiamo invitato un ospite che vive da tanti anni in Italia, ma che è appunto un giornalista greco, Dimitri Deliolanes. Buonasera. Buonasera. Corrispondente della defunta TV pubblica greca, è da Roma da moltissimi anni, da oltre 30 anni, giusto Dimitri? Beh, mettiamo anche 40. Ha fatto delle analisi molto importanti sulla Grecia. L'ultima è il suo libro appena pubblicato da Fandango, La sfida di Atene e Alexis Tsipras contro l'Europa dell'austerità, ma avevamo letto di lui anche un importante saggio su Alba Dorata, lo sapete, il fenomeno greco nazista, e poi il suo libro Come la Grecia quando la crisi di una nazione diventa la crisi di un intero sistema. Tu che vivi così da tanto tempo in Italia, cosa ti sei portato in valigia come gusti e sapori del tuo paese? Guarda, io la cosa che so fare bene, me lo dicono anche i miei figli, sono le lenticchie, che le metto nella pentola a pressione con poco pomodoro, alloro, aglio e cipolla, roba greca autentica. Del tuo paese, tu arrivi da dove? Da quale parte della Grecia? Dalla Tracia. E quindi lì le lenticchie, come in alcune zone d'Italia, sono molto utilizzate? Ma in tutta la Grecia, direi. Anche in questo una faccia, una razza, noi siamo molto simili come gusti e siamo molto vicini anche proprio nelle nostre radici, no? Questo si è visto anche di recente quando il discorso ad esempio della vittoria di Tsipras con un po' di orgoglio l'abbiamo sentito cantare proprio su queste note. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso, oh partigiano. Insomma, questa era Bella Ciao nella versione dei Modena City Rambers. Dimitri, molti hanno trovato singolare, insomma, che questa canzone in Italia forse un po' bistrattata di recente sia stata ascoltata molto, l'abbiamo sentita quando esultava il popolo greco per la vittoria di Tsipras. Sì, ma anche a Hong Kong i manifestanti la cantavano. Penso che sia la povera canzone stia pagando le colpe della sinistra italiana, che una volta era una sinistra fortissima, c'era il partito comunista più forte d'Occidente, adesso invece è in grave crisi e vede con interesse, ma anche forse con un pizzico di invidia, le sinistre di altri paesi. Ecco, la sinistra invece greca ci ha fatto questa sorpresa, no? Nelle urne ha vinto, è stata una vittoria storica. Le ultime notizie che vogliono, insomma, Tsipras aver aderito a questo memorandum dell'Eurogruppo e insomma, in qualche maniera possono aver scontentato qualcuno, ad esempio l'ex partigiano Glezos. Secondo te questo aver accettato queste, poi non entreremo nei particolari, ma insomma, si è piegato Tsipras all'Europa? No, assolutamente. Tsipras intanto è parte dell'Europa, è un partito filoeuropeo, è sempre stato un partito filoeuropeo. Quello che vuole è un'altra Europa, un'Europa senza austerità, e questo suo obiettivo lo persegue con grandissima abilità e con grandissima tenacia all'interno delle istituzioni preposte europee, senza assalti al Palazzo d'Inverno, che forse qualcheduno vorrebbe, ma con tenacia e con serietà. Ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire. Tu l'hai intervistato, nel tuo libro ci sono lunghi stralci di intervista proprio con Tsipras, quindi l'hai conosciuto. Che tipo è? Tsipras è giovane e sicuramente è inesperto, non ha grande esperienza di governo, però è molto aperto alle sollecitazioni esterne e impara in grandissima fretta, impara e ascolta. Infatti è lui l'artefice della vittoria di Syriza, il suo partito spesso non lo segue, anzi nelle fasi più difficili, più complesse, come è stata questa settimana, spesso lo lascia solo, si tiene in disparte. Tsipras parla alla grande massa del popolo greco, il suo partito parla a una piccola parte della sinistra. Ecco, da questo punto di vista, dal fatto che parli direttamente al popolo, che abbia questo carisma, anche la questione anagrafica ci fa pensare a un parallelismo con Renzi. Tu lo vedi questo? Sì, sicuramente sono due leader giovani, sono due leader spregiudicati e sono due leader che hanno la capacità di parlare direttamente a grandi masse dei loro concittadini. Sicuramente ci sono però delle enormi divergenze sul piano politico. Si sono anche incontrati di recente e Alexis Tsipras ha regalato al collega italiano un CD abbastanza particolare, deve dire. Sentiamo. Allora, Tsipras ha regalato in un recente incontro, quello famoso in cui Renzi gli regalò la cravatta, no? Questo CD di Pizzica, Taranta, Musiche e Balle del Salento, un album per veri estimatori della musica popolare salentina. Dimitri, secondo te come mai? Ma dalla Grecia salentina, direi, perché lì c'è una piccola comunità grecofona che partecipa a questo movimento musicale, se vogliamo chiamarlo, per cui è l'elemento che unisce i due paesi. Sono degli italiani che ancora continuano a usare la nostra antichissima lingua, per cui è stato un gesto, diciamo così, di comunanza, ecco, tra i due popoli. Delle comuni radici, come dicevamo prima, dalle lenticchie in poi. È stata una sorpresa un po' questa vittoria, soprattutto l'ascesa di Syriza, no? Così prepotente. Per i greci è stata una sorpresa invece? No, eravamo tutti sicuri che avrebbe vinto le elezioni. Infatti c'è stato anche diciamo, l'elemento inevitabile di ogni vittoria, che anche gli elementi, diciamo così, più opportunisti che fiutano il vento poi si sono aggregati, come diceva Flaiano, sono corsi in soccorso del vincitore. Change the system. Questa è una canzone che ha fatto da sottofondo musicale, anche questa, come colonna sonora alle cronache della vittoria ateniese, la canzone di Leonard Cohen nella versione dei REM. First we take Manhattan, then we take Berlin. È stata suonata durante il comizio congiunto di Tsipras e di Iglesias, no? Il leader di Podemos. Dimitri, è una canzone interessante. I due l'hanno prontamente ribattezzata: prima prenderemo Atene, poi prenderemo Berlino. Sì, è interessante. Sì, ti leggo bene, domani il mondo, no, veramente dà l'idea, insomma, che questa vittoria di Syriza non era solo la vittoria, diciamo, di un partito, ma è anche un progetto diverso per l'Unione Europea, no? Ti leggo alcuni stralci della traduzione della canzone. Mi hanno condannato a 20 anni di noia per aver provato a cambiare il sistema dall'interno. Adesso vengo a prendere quel che mi spetta. Prima prenderemo Manhattan, poi prenderemo Berlino. Insomma, una sfida bella pesante. Tu cosa ne pensi? Varoufakis, che tu, insomma, conosci bene, lo vedo molto in questo contesto rock. Sì, io ho letto solo i suoi libri e quindi lo conosco solo dalle sue apparizioni, diciamo, mediatiche. Sicuramente è una rock star. E poi se l'è cavata abbastanza bene, anche sì. Insomma, capace di fare di evolversi, di fare delle manovre, come esige la politica. Insomma, non mi sembra che se la cavi abbastanza bene anche come politico, ecco. Secondo te l'euroscetticismo greco dipende dalla crisi economica, oppure, diciamo così, è endemico, un po' come accade per i paesi del nord Europa, no? Che per tradizione, per DNA proprio hanno al loro interno questo euroscetticismo? Guarda che in Grecia non c'è euroscetticismo, c'è il popolo greco, la stragrande maggioranza è filo europeo, noi ci sentiamo europei, noi siamo europei, e pochissimi tra i greci vorrebbero uscire, non ti dico dall'Unione Europea ma neanche dall'Eurozona. Infatti la vittoria anche di Tsipras, di Syriza, perché ha voluto coniugare una diversa politica economica con continuare a essere membri dell'Unione Europea e dell'Eurozona. È una questione proprio di appartenenza culturale per noi essere all'interno, cioè, riteniamo che sarebbe un'offesa, un trauma veramente molto profondo per noi e per l'Unione Europea procedere all'unificazione senza la Grecia. Sempre dalla canzone che abbiamo sentito prima, c'è questa frase interessante: mi hai amato perché ero un perdente, adesso sei preoccupato che possa vincere. Curiosa e interessante, no? Perché racconta un po' un pezzo di questa storia che stiamo attraversando. E pensavo anche a Podemos, no? alla Spagna, perché nella seconda metà del 2015 anche la Spagna andrà al voto. Ti chiedevo prima del parallelismo con Renzi, anche con Iglesias ci sono molti punti di contatto con Pablo Iglesias. Sì, tantissimi. tantissimi, tantissimi punti in contatto. Al primo posto ovviamente la lotta all'austerità, che dopo la Grecia la Spagna è il secondo paese colpito da queste misure, ha il secondo, la seconda percentuale più alta di disoccupazione. Però prima ridevo che dicevi di questo, che hai paura di vincere, no? Del vincente. E pensavo che evidentemente l'hanno scelta questa canzone perché c'è una sottile allusione anche alla dialettica interna all'interno di Syriza, perché questa trasformazione da partito del 4% a partito del 36% non è piaciuta a tutti i membri di Syriza, per cui c'è una componente, una più o meno piccola, più o meno ristretta, che effettivamente avrebbe preferito perdere le elezioni piuttosto che vincerle, ecco. Those items that you sent me, the monkey and the plywood island. I practice. E questa alleanza invece che ha sorpreso un pochino gli italiani, almeno che non abbiano cercato un'alleanza con Topotami, ma quella con i greci indipendenti. Diventata dall'Unione Europea, in Grecia non ci credeva nessuno, perché Topotami è una formazione filo austerità, per cui francamente era un'ipotesi assolutamente campata per aria. I giornalisti italiani sono andati lì ben preparati da fonti della Commissione Europea ed erano convinti di riportare l'opinione della Commissione Europea, non quello che succedeva in Grecia ovviamente. Invece l'alleanza con i greci indipendenti era una cosa che già era avvenuta in Parlamento nei 2 anni e mezzo della legislatura, quindi era una cosa molto molto matura e tutti se l'attendevano. Ti dirò di più, però io dico spesso che, da quello che ho capito io, probabilmente anche se avesse avuto la maggioranza assoluta, Tsipras comunque avrebbe cercato di inserire al governo rappresentanti di questa formazione di centrodestra, perché è stata presentata in maniera assolutamente calunniosa: fascisti, antisemiti, sono gente di centrodestra, dei democratici, sono di centrodestra, ma sono anti-austerità, per cui non vedo perché la sinistra non dovrebbe collaborare con loro. Quindi, secondo te, insomma, anche le cronache italiane della Grecia sono state un po' inficiate, come dicevi, da conoscenze a Berlino? Se vuoi possiamo dedicare una giornata intera a parlare delle scemenze che ho letto sulla stampa italiana, a cominciare da questi famosi 40 miliardi di credito della Grecia, dell'Italia verso la Grecia, e invece non considerare questi più di 2.000 miliardi di debito dell'Italia verso il resto del mondo. Cioè, è stata la mia sorpresa tornando dalle elezioni, sono caduto dalle nuvole, prima pagina del Corriere, l'argomento del giorno, sono 40 miliardi. Delle cose assolutamente non stanno né in cielo né in terra. Ecco la presenza dei Clash, in questo caso, in questa versione curiosa. Versione araba, la conosci, di Rashid Tah. È una versione sì araba, appunto, del cantante franco-algerino, che è stata questa canzone dei Clash, suonata in questa versione nella serata vittoriosa di Syriza, alla fine del discorso di Tsipras. Certo, e ti dico di più, è la sua canzone preferita e ce l'ha anche nella suoneria del suo cellulare. Ti do anche questo scoop. Ah, questo non lo sapevo. dicevamo. Beh, gli piacciono i Clash, quindi, perché anche London Calling l'abbiamo sentita più volte, no? Sì, sì, è la band della sua generazione. Tra l'altro è interessante perché questa versione suonata in rock parla anche del divieto di suonare il rock imposto dall'Ayatollah Khomeini in Iran, no? Al signore non piace che si suoni il rock nella Kashba, dice la canzone. È molto interessante e curiosa questa versione, perché pensavo nei parallelismi che facevamo tra Italia, Spagna e Grecia, insomma tutte affacciate sul Mediterraneo, c'è anche la questione migranti, che è molto importante, no? Quindi migranti tragica, e Libia. Una questione tragica, un problema di difficilissima soluzione che richiede generosità e richiede un impegno, diciamo così, collettivo da parte dell'Europa. È un problema veramente tragico, di difficilissima soluzione, perché poi si chiede alla Germania, la Germania dice: guarda che io ho una percentuale di richiedenti asilo molto superiore a voi due, alla Grecia e all'Italia messi insieme, e ha ragione. E questo ragione è vero, tra l'altro, sì. Esatto, è vero, hanno ragione. Lo stesso si può dire per la Svezia, lo stesso si può dire per la Danimarca. Quindi, insomma, è estremamente complessa la cosa, è un problema di difficilissima soluzione, però sicuramente non può andare avanti così. Bisogna fare qualche cosa, bisogna che ci sia un'iniziativa europea nel gestire questa difficile, non solo il problema dell'ondata dei profughi, ma anche i nostri rapporti con i paesi vicini, con la costa sud del Mediterraneo, e non fare gli errori che sono stati fatti, per esempio, in Libia, e stavano per essere fatti anche in Siria, insomma. Dimitri, per prima di chiudere, come si vive oggi in Grecia? Allora, guarda, si vive sempre più poveramente, siamo poveri, spendiamo poco, non usciamo fuori per mangiare, ma ci vediamo nelle case della gente, ci vestiamo molto poveramente, però adesso rispetto a prima abbiamo la speranza. Visto che gli ascoltatori, magari qualcuno di loro sarà in procinto di prenotare le vacanze estive, potrebbe essere una buona idea, insomma, considerare la Grecia anche, no? Ma certo, perché i prezzi sono calati, cioè quei prezzi che sono rimasti alti sono quelli per il super lusso. Tutti nelle isole, quindi, greche, quindi. Sì, quindi io suggerisco senz'altro, perché fanno bene sicuramente all'anima, fanno bene anche al portafoglio. Un poeta di Gela, archestrato, contemporaneo di Dionisio il Giovane, tiranno di Siracusa, noto buongustaio, intraprese un lungo viaggio in molti paesi, ritenuti allora più raffinati, con l'unico scopo di studiare i loro costumi gastronomici. Una delle tappe più importanti fu ovviamente Atene. Quando gli europei ignoravano i rudimenti della cucina, i greci sapevano già utilizzarne i diversi ingredienti. Anche oggi la cucina greca è molto apprezzata. Un tipico piatto greco è costituito da una serie di mezzedes, equivalenti ai nostri antipasti, e da una portata principale. Le mezzedes possono includere olive nere, sottaceti, acciughe, salumi, formaggio feta, dolmades, involtini di riso o carne tritata, taramo salata, una salsa preparata a base di uova di pesce, e tzatziki, il famoso yogurt greco lavorato con cetriolo, aglio e olio. Le mezzedes possono anche accompagnare i tipici aperitivi locali. L'uso, dal gusto di anice, e la mastica, meno forte e più profumata. I piatti principali sono abbastanza vari e costituiti da carne, tipicamente agnello o porchetta, pesce alla griglia o fritto, oppure timballi con verdure. Il più celebre piatto greco è senz'altro la moussaka, un timballo di melanzane e carne molto simile alle nostre lasagne. Come contorno o come piatto unico leggero, è sempre possibile trovare la salata coriatiki, tipica insalata greca arricchita con olive e formaggio feta. I dolci greci sono di tipica influenza medio orientale e pertanto ricchi di frutta secca e di miele, come la classica baklava o i katafi, e vengono normalmente consumati in pasticceria e non al ristorante a fine pasto. Grazie Dimitri, buona serata. Grazie a te, grazie a voi. Grazie in regia a Paolo Corleoni e a tutti voi per essere stati in ascolto questa sera. Io vi do appuntamento a sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little.